il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Questa settimana siamo stati colpiti dalla notizia di un gruppo di cittadini in periferia di Padova, nel quartiere di Sacro Cuore, che da qualche tempo si sono messi assieme per cercare di stendere un progetto e di raccogliere dei soldi per acquisire un terreno, appunto proprio nella periferia di Padova, per salvarlo dall'edificazione e renderlo ad uso agricolo. Questo progetto si chiama Pacta Sacro Cuore, appunto il nome del quartiere, e abbiamo con noi oggi Marco Sangatti, uno dei promotori di questo progetto. Benvenuto Marco. Grazie. Ecco, ci ha un po' incuriosito questa notizia, perché un gruppo di cittadini pensa di mettersi assieme per salvare, tra virgolette, un pezzettino di terra vicino a casa? Perché, ecco, guardandoci un po' attorno, quello che vediamo è che nonostante sia un periodo di crisi immobiliare, ci sono in continuazione nuove lottizzazioni approvate e nel concreto invece vediamo anche dei cantieri aperti dove prima c'era terreno agricolo, adesso si stanno costruendo degli appartamenti. Ecco, siamo vicino lì a Sacro Cuore e al Picchiero, si stanno costruendo decine di appartamenti in una zona che era agricola fino a poco tempo fa. E quindi l'idea è un po' questa, siccome non ci sembra che dall'alto ci sia questa attenzione al non costruire nuovo, visto che c'è tanto costruito non utilizzato, abbiamo detto, se non lo fa nessuno, ci mettiamo noi a farlo. Quindi l'idea è quella di appunto acquistare assieme un pezzo di terreno e valorizzarlo dal punto di vista agricolo, sia per il valore in sé, sia per dare un segnale che c'è la necessità di cambiamento nella gestione del territorio. Ecco, voi siete un gruppo di cittadini, non è un'associazione, un ente, qualche cosa che parte, no, da cui è partito? No, noi siamo un gruppo di persone che si è aggregata proprio attorno a questa idea che è stata un po' lanciata in quartiere più o meno un anno fa. Siamo più o meno una quindicina di persone, di cui 4-5 un attimo più attivi, che provano a tirare le fila, e quindi ecco, dopo un anno tra virgolette di incubazione interna abbiamo deciso di fare delle serate pubbliche per diffondere la nostra idea. Ecco. Perché vorremmo che la nostra idea diventasse un progetto, che poi il progetto venga realizzato. Ecco, il nome Pacta per cosa sta? So che è una... Pacta è, appunto, vuol dire progetto di acquisto collettivo di terreno agricolo, è un termine che abbiamo coniato noi e che ci sembrava bello anche come termine, come acronimo che viene, e anche bello nel significato. Ecco. Ecco, se riuscirete ad acquisire questo terreno, cosa ne farete? Ma allora, ci sono diverse idee. Intanto, ecco, lo scopo delle serate è quello di trovare nuove persone, nuove competenze, intanto per scrivere un progetto assieme, perché per noi la parte di scrittura collettiva è molto importante e vogliamo farlo, diciamo, essendo sicuri che poi il progetto che scriviamo sia un progetto valido da un punto di vista ambientale e sostenibile da un punto di vista economico. Ci sono diverse idee, diciamo, sicuramente l'idea, anche vedendo quello che c'è attorno, di fare magari degli orti sociali da affittare a canone abbastanza basso, dove quindi delle persone possono prendere in gestione una piccola porzione di terreno, 50 metri quadri, e coltivarselo a livello privato. Però c'è anche l'idea di tenere degli spazi a coltivazione collettiva, potrebbe essere un qualcosa di non particolarmente oneroso dal punto di vista della cura, come adesso, potrebbe essere un frutteto, ecco, quindi che ha un qualcosa che abbia un costo iniziale di una certa consistenza, ma che poi nella gestione abbia una manutenzione meno importante rispetto a un orto di di vegetali, ecco. Quindi si coniugano due cose: l'attenzione alla, al non cementificare, quindi a salvare, a lasciare che appunto che non sia cementificata una zona del quartiere, nello stesso tempo creare un luogo di eventuale socializzazione o comunque anche di educazione ambientale in qualche modo. Esatto, perché poi ecco, magari non tutto il terreno sarà coltivato, magari alcuni spazi li terremo riservati a proprio spazi di aggregazione sociale, quindi anche per giochi, per momenti di incontro, di cultura. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Nessun motore sarà spento, no, non è una favola, nello slogan di una pubblicità, è il futuro del mondo, e non sto fantasticando. Io vorrei che per te, quell'isola che non c'è, diventasse realtà. Un'isola vera, dove davvero si va. Io vorrei che per te, quell'isola che non c'è, diventasse realtà. Non solo un'isola esclusiva di Peter Pan. Sogno che vola, c'è il futuro a portata di mano, e serve un cielo pulito per lasciarlo guardare lontano. No, non è fantasia, e non serve nessuna magia, è il cielo in cui volerai, e l'aria che respirerai. Un'isola che non c'è, diventasse realtà, un'isola vera, dove davvero si va. Finché nell'aria c'è il vento, non resteremo mai al buio e nessun motore sarà spento. Eccoci di nuovo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di un'iniziativa singolare, Pacta Sacro Cuore, ovvero un gruppo di cittadini della zona di questo sobborgo di Padova che ha deciso di mettersi assieme per cercare di recuperare ed acquistare assieme un terreno che da anni non è coltivato, per in qualche modo salvarlo da un possibile rischio di cementificazione. Abbiamo in linea Marco Sangati, uno dei promotori, e tu mi dicevi prima della trasmissione che in realtà non è il primo problema quello di recuperare i soldi, cioè ci sono delle persone disponibili, il problema è più gestire, andare a fare il progetto. Sì, noi eravamo partiti un anno fa pensando che il problema fosse quello appunto di trovare finanziatori, e invece ecco, solo sull'idea siamo arrivati a raccogliere intenzioni, diciamo, di donazioni per 60-70 mila euro, che è più o meno un terzo di quello che ci servirebbe, il che ci ha stupito in maniera positiva, nel senso che noi, non avendo nessun progetto, pensavamo che fosse più difficile, diciamo, raccogliere delle adesioni. Poi ecco, quando abbiamo raggiunto una certa soglia, appunto quei 60.000 euro, abbiamo visto che la cosa è fattibile, ora è il momento di provare a scrivere insieme un progetto. Ecco, su quello abbiamo trovato più difficoltà, nel senso che le persone che abbiano voglia di dedicare tempo e possibilmente con delle competenze specifiche, nel nostro giro abbiamo fatto fatica a trovarle, e quindi abbiamo pensato di fare appunto questi 4 incontri per pubblicizzare la nostra idea e per far sì che le persone che ci aggregano ci aiutino a scrivere un progetto basato appunto sulla nostra idea. Ecco, la dimensione di questo terreno, visto che parliamo di cifre non piccole? Sì, è un paio di ettari di terreno, diciamo per iniziare, ecco, tra l'acquisto sugli 8 euro al metro quadro, quindi dovrebbe essere indicativamente sui 150-160.000 euro, ci poniamo, diciamo, un obiettivo di 200.000 euro, perché poi serviranno dei soldi per avviare un po', certo, tutto il progetto. Ecco, ma una volta raccolti questi soldi, la proprietà di questo terreno di chi sarà? Dovrete costituire qualche cosa, un'associazione? Sì. Allora, l'idea è quella, per l'acquisto, di fare una cooperativa dove appunto i finanziatori mettono del capitale sociale nella cooperativa, e poi la proprietà del terreno sia della cooperativa. Mentre a livello di gestione del terreno pensavamo una struttura più snella, come quella dell'associazione. Ecco, questa cosa, diciamo, è un'idea che è venuta fuori un po' durante questo anno di discussione, però siamo pronti, diciamo, anche ad altre strutture, se poi alcune persone che magari hanno più competenza di noi ci suggeriscono altre strade per diciamo gestire il terreno. L'idea è che comunque che sia una proprietà collettiva, quindi che sia garantita il fatto che non ci sia un proprietario e delle altre persone che gestiscono la cosa, ma che anche la proprietà sia in qualche modo condivisa fra più persone, e ci sembrava che la cooperativa garantisse questa cosa. Ecco, mi pare che abbiate le idee chiare su quello che volete andare a fare, anche se c'è ancora spazio per idee su come gestire poi questo appunto questo luogo, e chi verrà a incontrarvi in questi incontri. Adesso alcuni sono già stati fatti, possiamo dire quali sono i prossimi 2 incontri, se qualcuno è interessato, magari che abita nella zona, potrebbe anche pensare di venire a incontrarvi, a sentire cosa state combinando e anche a portare il suo apporto. Sì, allora il 5 novembre alle 8.45, 9:15 di sera, siamo nella sala parrocchiale della parrocchia Sacro Cuore, che è a poche centinaia di metri dal terreno da acquistare. E mentre il 17 di novembre siamo per un aperitivo all'osteria di Fuoriporta, che per intenderci è vicino al cinema Astra ad Arcella. L'Arcella, sempre vicino alla stazione di Padova. Vicino al suo cuore, sì. Bene, diciamo che ecco, il bacino degli attivisti oltre al suo cuore è proprio il quartiere dell'Arcella, che è un quartiere da una parte molto abitato e molto cementificato. Lì, in questa zona, molte persone vanno a correre, vanno a fare passeggiate, per cui proprio le persone dell'Arcella ci tengono che questo ultimo polmone di verde agricolo non venga cementificato, non venga abbandonato. La facilità con cui abbiamo trovato finanziatori è anche dovuta al fatto che le persone che vivono là vedono come valore il mantenimento di quel terreno come agricolo. Grazie Marco e auguri per questa iniziativa. Grazie a voi per averci chiamato. Concludiamo la trasmissione con un paio di notizie. Si terrà venerdì 13 novembre nell'Aura Magna della Fondazione Edmund Mack a San Michele all'Adige, in provincia di Trento, un importante convegno dal titolo Ripartire dalle api. È un convegno che vuole riportare l'attenzione sulla necessità di approfondire le conoscenze biologiche dell'ape mellifera al fine di contrastare il grave fenomeno di livello mondiale definito declino delle api. Questo è un fenomeno che attraversa tutto il mondo dell'apicoltura e dell'agricoltura ed è ancora più grave se si considera l'insostituibile ruolo ecologico dell'ape mellifera, responsabile dell'impollinazione della maggior parte delle piante spontanee della nostra flora. Quindi i relatori invitati al convegno presenteranno una sintesi delle più attuali conoscenze sugli aspetti cruciali della biologia dell'ape, come la costruzione del fave, l'alimentazione, i microrganismi simbionti del suo apparato digerente, e proporranno anche riflessioni sul significato di alcune pratiche apistiche come la selezione. Il convegno approfondirà infine l'applicabilità del concetto di benessere animale in apicoltura anche attraverso la presentazione di esperienze di apicoltura naturale. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.